Guarda il cielo fuori, guarda il cielo lontano dai muri della città che imprigionano il tuo mistero. Stelle come a notte fonda, il tuo mistero si innalzerà. Lo squarcio di cielo dalla mia stanza volerà. Guarda avanti, ora che è tempo di volare, la tua voce si schiarirà, nuovi venti e il tuo passo in avanti camminerà. Stelle come a notte fonda, il tuo mistero si innalzerà. Ora vedo il passo vero, fuori dal buio nero, attraverso lo squarcio di cielo, incorniciato tra i due palazzi, fuori della mia stanza, paradiso che inonda ogni presenza, paradiso che inonda ogni presenza. Apri gli occhi e guarda il cielo, apri gli occhi e guarda il cielo, guarda il cielo. Nuvole parlano, sanno portare consiglio, nuvole troppo scure urtano, pensiero su pensiero, fermando il tempo su una scure. Guarda in alto, stelle come notte fonda, il tuo mistero si innalzerà, si innalzerà. Stelle come a notte fonda, il tuo mistero si innalzerà. Il cuore che vola, anche solo con il calore del mattino con l'alba. Ed ora, è ora che ritorni la calma, la calma. Ed ora, è ora che ritorni la calma, la calma. Vento fresco che tocca, dentro vortice si somma. Vento sul vento, apri gli occhi e vedrai. Vento sul vento, apri gli occhi e vedrai. Stelle come a notte fonda, il tuo mistero si innalzerà. Nuvole parlano, sanno portare consiglio, nuvole troppo scure urtano, pensiero su pensiero, fermando il tempo su una scure. Stelle come notte fonda, il tuo mistero si innalzerà, si innalzerà, si innalzerà. Che vola anche solo con il calore del mattino e l'alba. Ed ora che ritorni la calma, la calma. Ed ora che ritorni la calma, la calma. Vento fresco che tocca, vento forte che si somma. Vento sul vento, vento fresco che tocca, vento forte che si somma. Vento. Apri gli occhi, apri gli occhi, siamo arrivati, terra promessa.